24 mattino estate con Irene Zerbini. Difficoltoso riportare l'ordine anche alla Camera. Questa era la standing ovation decisamente inusuale con il quale ieri è stato accolto il Presidente del Consiglio. Intanto buongiorno, non prenderemo in esame tutte le anomalie o presunte tali di questa stagione politica oggi, ma partiamo da numeri. Buongiorno a Piero Stellino. Buongiorno, buongiorno. E buongiorno a tutti voi da Irene Zerbini per i vostri stimoli, per le vostre opinioni, per le vostre riflessioni. Il numero SMS 349-238-6666. Parleremo a proposito di numeri questa mattina anche di affitti. Le case di proprietà in Italia sono l'83%. E questo, crederci o meno, condiziona anche la vita, il modo di muoversi, letteralmente, la mobilità sociale, il mercato degli affitti che comunque stenta a decollare, quello che c'è. Altra nota negativa, per il 50% è in nero. Si è presa in esame questa situazione partendo da una possibilità di cambiare la tassazione per i proprietari e si è deciso alla fine, anche se all'inizio era stato scritto un 25%, per una cedolare secca al 20% sugli affitti. Si poteva fare di più, si doveva andare in un'altra direzione. Come la pensate? Questo vi abbiamo chiesto sul sito www.radio24.it e sarà anche il sondaggio di bianco o nero. Torniamo alla Camera, presenti 603 ieri, votanti 528, gli astenuti 75. I favorevoli sono stati 229, i contrari 299. La maggioranza si è raggiunta con 265. E dicono qualcosa da soli questi numeri, secondo lei, Ostellino? Beh, dicono che la nascita di questo, chiamiamolo movimento, capeggiato da Fini, non incide sulla stabilità del governo, quindi evidentemente la forza di Fini in Parlamento di condizionare il governo è minore di quanto lo stesso Fini probabilmente pensasse. Cioè, in altri termini, c'è una stabilità del governo che non dovrebbe preludere ad elezioni anticipate, tutto lì. Eppure molti invece fanno un altro tipo di somma. I favorevoli più gli astenuti non porterebbero a quella maggioranza assoluta in seno al Parlamento che invece molti si auguravano, ma non solo si auguravano, adesso a prescindere dai desideri di ognuno. Silvio Berlusconi e il Partito delle Libertà aveva vinto le elezioni alla grande, cioè non c'era nessuna preoccupazione numerica. A questo punto si può registrare un cambiamento rispetto a due anni fa? Beh, certo che si registra un cambiamento, questo è evidente. C'è stata una secessione, diciamo così, all'interno del Popolo della Libertà e questa secessione, tanto più che sarebbe variabile all'interno del Parlamento stesso, cioè di volta in volta Fini e i suoi si riservano di votare in un modo piuttosto che in un altro e quindi sul governo pesa una certa incognita. Però il fatto stesso che si siano astenuti e che abbiano anche l'intenzione di non boicottare l'andamento del governo, questo dovrebbe rassicurare in qualche modo la vecchia maggioranza, che è cambiata certamente, è diventata una maggioranza più variabile e quindi più soggetta alla congiuntura, cioè di volta in volta il rischio che qualche cosa accada c'è. Lei dice però ora non si vota e non si voterà da qui a breve. Ed è interessante come da questi numeri siano state date dalle testate dei giornali oggi tutte le interpretazioni diametralmente opposte. C'è chi giura si andrà a votare in autunno, c'è chi dice Caliendo è salvo ma la maggioranza no, c'è chi dice che Berlusconi sarebbe tentato dal voto e altri addirittura che lo tema. Lei è l'ex direttore del Corriere. Se fosse stato direttore ieri, quindi incaricato di scegliere il titolo, Ostellino, cosa avrebbe fatto? Avrei detto che Berlusconi dichiara di non volere le elezioni pubblicamente, ma che in cuor suo probabilmente ci pensa per una ragione semplice, che cioè lui pensa, e forse nemmeno ingiustamente, che se va ad elezioni ha un suffragio molto alto e quindi le stravince di nuovo. E le stravince non solo perché Fini non ha una capacità elettorale da disturbare il successo di Berlusconi, ma perché anche l'opposizione, cioè la sinistra, è praticamente scomparsa. Cioè, in altri termini, oggi se Berlusconi va ad elezioni è un suffragio nei suoi confronti, è un referendum nei suoi confronti che si risolve, che probabilmente si risolve in un suo successo clamoroso. E sul ruolo della stampa le ho chiesto appunto come avrebbe fatto il titolo del Corriere, volendo citare uno dei quotidiani a maggiore diffusione, ma insomma di qualsiasi testata autorevole circolante esiste in questo paese. Sul ruolo della stampa lei, Ostellino, ha avuto a lamentarsi recentemente dicendo: non è comunque il compito dei giornali o dei giornalisti spingere Fini o Berlusconi in una direzione o in un'altra. Toni molto critici verso stampa e media. Perché? Cosa avrebbero dovuto fare per dare un'informazione corretta? Avrebbero dovuto rispettare quelle che sono le regole costituzionali, cioè che il Presidente della Camera venga invitato a far cadere il governo da parte di un giornale, e non ho difficoltà a citarlo, La Repubblica, che fino all'altro ieri sosteneva di essere il custode della Costituzione, della coscienza civile degli italiani, e poi sospende temporaneamente questo suo ruolo per invitare Fini a far cadere il governo, cioè il Presidente della Camera, la cui funzione non è quella di far cadere i governi, è abbastanza singolare. Che sulla destra, a sua volta, il giornale inviti Berlusconi, cioè il Presidente del Consiglio, a delegittimare il Presidente della Camera, cosa che non è nemmeno questa la funzione dell'istituzione Presidente del Consiglio, anche questo è molto anomalo. Cioè ci siamo dimenticati, o meglio i giornali italiani si sono dimenticati, di fronte all'isterismo collettivo berlusconiani, anti-berlusconiani, che ci sono delle regole del gioco costituzionali e che quindi invitare due istituzioni a confliggere per delegittimare una o far cadere l'altra è una cosa abbastanza singolare da parte di un giornalismo che dovrebbe innanzitutto tenere presente che c'è una Costituzione e che questa Costituzione va rispettata. Quindi nell'isteria collettiva il faro dovrebbe essere, almeno per la stampa, la Costituzione. Visto che ci siamo spesi a giudicare, in questo caso La Repubblica e il giornale, le chiedo un altro voto rispetto a Famiglia Cristiana, no? Una concezione padronale dello Stato, ha scritto, ha ridotto ministri e politici in servitori. Adesso, sintetizzando in breve, l'orizzonte oltre la rottura tra Berlusconi e Fini potrà configurarsi come una scossa salutare, scrive Don Antonio Sciortino, il direttore di Famiglia Cristiana, solo se si tornerà a fare vera politica, quella che ha a cuore i concreti problemi delle famiglie, dalla disoccupazione alla crescente povertà. Insomma, abbiamo l'umiltà e la pazienza di ricominciare, dice lui. In questo caso, e stando a quei criteri che lei, Ostellino, grande maestro di giornalismo tra l'altro, ha appena elencato, non si configura alcuna anomalia dal punto di vista istituzionale, non si spinge in una direzione o in un'altra, quindi il ruolo della stampa in questo caso è stato rispettato. Sì, non c'è dubbio, cioè Famiglia Cristiana ha espresso un'opinione, viviamo in un paese di democrazia liberale dove le opinioni sono libere, sono legittime, e quindi Famiglia Cristiana ha giustamente invitato il governo a, come dire, non avere una concezione patrimoniale della sua funzione, cioè quella di pensare che il governo sia un affare personale del Presidente del Consiglio, e l'ha invitato invece a fare politica. Dopodiché il commento che si può fare è che Famiglia Cristiana ha espresso un'opinione legittima come qualsiasi altra. E tutti al mare, poi si vota, questa è la sintesi data da un altro quotidiano oggi, riferimenti alla vera politica da parte di Famiglia Cristiana e un po' di stanchezza anche dai messaggi degli ascoltatori riguardo a quello che a volte viene definito un teatrino. Eppure politica non era una parolaccia fino a poco tempo fa. Potrà tornare ad avere la sua dignità, secondo lei, Ostellino, in chiusura? Ma la può avere ad una sola condizione, cioè che il mondo della politica pensi che è al servizio dei cittadini e non il contrario. Cioè le beghe all'interno dei partiti oppure tra partito e opposizione su questioni che riguardano strettamente il palazzo non vengono capite e giustamente non sono capite dai cittadini, i quali si aspettano semplicemente che il governo e anche la stessa opposizione facciano il loro mestiere, cioè un mestiere al servizio del cittadino. Il governo non promuovendo iniziative che danneggiano le libertà individuali e l'opposizione difendendo queste libertà individuali laddove siano minacciate. Questa è la funzione del governo e della politica, cioè di pensare di essere al servizio delle libertà e dei diritti soggettivi dei cittadini. Grazie. I cittadini non hanno la sensazione che questo avvenga ed evidentemente sono contrari alla politica. Disaffezione registrata in tutti i campi. Grazie ancora a Piero Ostellino, anche e non solo naturalmente, per essersi alzato a quest'ora e non averci abbandonato nonostante così l'atmosfera estiva. Irene Zerbini vi saluta, vi dà ancora il buongiorno se avete acceso la radio da poco. Ci ritroveremo poi a Bianconero per parlare di cedolare secca. 24 mattino estate. Buongiorno, ritorniamo insieme anche questa mattina alle 8:15 per andare a incontrare qualcuno che guarda l'Italia con occhi diversi, vivendoci e raccontandola, in questo caso alla TAZ e alla WDR, la radio pubblica tedesca. Do il benvenuto al corrispondente dalla Germania, Michael Braun. Buongiorno Michael. Buongiorno. Da quanti anni stai in Italia? Io quasi 15, a fine anno saranno 15 anni che vivo in Italia. Soddisfatto? Beh sì, io mi ci trovo molto bene, vivo a Roma, è una bellissima città che ha un'alta qualità della vita, almeno se uno non deve farsi tutta la città nel traffico mattutino in andata e poi con quello pomeridiano in ritorno, ci si può stare molto bene a Roma. Eppure abbiamo visto anche i tuoi articoli molto critici sull'Italia e dall'Italia. Per esempio, ne cito una: per un tedesco è molto strano vedere con quale facilità in Italia si possa evadere le tasse. Cosa succederebbe in Germania nel caso di reati di evasione? Ma di solito possiamo citare anche degli esempi famosi, il papà della famosa tennista Steffi Graf, per esempio, che era pure il suo manager che curava, diciamo, il lato economico della sua carriera, si è fatto svariati anni di galera, ma galera vera, proprio perché aveva evaso le tasse in dimensioni anche molto cospicue, e quindi lì veramente la finanza tedesca picchia duro e picchia duro anche la giustizia in quei casi. Spieghi, c'è una situazione schizofrenica: se un cittadino fa un piccolo errore formale in Italia deve subito pagare una mora e spesso anche salata, e il fisco invece non è così severo con il piccolo errore, cioè si va più alla ricerca dell'evasione sostanziosa, ci si può mettere d'accordo con colui che ha sbagliato. Sì, diciamo che l'errore formale, cioè una cifra messa male o magari anche un piccolo errore di arrotondamento, in Germania direttamente non viene perseguito, non viene neanche perseguito il fatto di consegnare magari la dichiarazione con un lieve ritardo, uno paga giusto un interesse di mora lievissimo, ma non paga penali, non paga multe né niente, e diciamo il funzionario dell'ufficio delle imposte che segue la dichiarazione delle tasse di un cittadino, per esempio, può benissimo essere che scriva una lettera chiedendo illuminazioni su una posizione che non gli è chiara, uno lo chiama e si risolve la situazione spesso e volentieri già al telefono, altrimenti uno risponde per iscritto, ma multe eccetera veramente sono la rara eccezione anche in questo caso. Però c'è questo dialogo possibile con il fisco, certo rigoroso, ma che ha quasi un volto umano, soprattutto c'è un interlocutore a cui rivolgersi e con il quale si può chiarire anche una situazione magari difficile tecnicamente. Sì, ma uno sa proprio il nome del responsabile che segue la sua pratica, sa pure il numero diretto scritto su tutte le corrispondenze dell'ufficio delle imposte, quindi alza il telefono, chiama l'addetto responsabile per la pratica e chiarisce con lui che cosa magari c'è da fornire ancora come documentazione o se la valutazione di una spesa come spesa da addebitare a scopi professionali era corretta o meno, eccetera. Veramente dialogo proprio nel senso della parola, ci si parla. Affrontiamo ora un altro aspetto. Ti sei occupato naturalmente anche della differenza tra il fisco italiano e il fisco tedesco. Ti ha colpito nella tua esperienza di residente italiano? Hai un permesso di soggiorno, Michael? Certo, cioè adesso non ne ho più bisogno da quando sono cambiate le norme, praticamente adesso basta la residenza. Un tempo infatti dovevo fare il permesso di soggiorno e prolungarlo, ma adesso essendo cittadino europeo basta la residenza. Se tu chiedessi la cittadinanza italiana, saresti costretto dalla Germania a rinunciare alla tua? No, perché la Germania e l'Italia hanno un accordo bilaterale di riconoscere a vicenda le cittadinanze, quindi chi italiano vive in Germania e vuole farsi tedesco lo fa tranquillamente mantenendo la sua cittadinanza italiana di origine, lo stesso vale per i tedeschi in Italia, però va detto che ben pochi ne fanno uso in tutti e due i casi, perché essendo tutti e due cittadini europei, uno sul versante pratico, a parte la partecipazione al voto nazionale, vive pochissimi cambiamenti. Chiaro. Mentre, per esempio, e tu non ci tieni a votare? Non ci tieni a votare per il Parlamento italiano? Veramente, per un certo verso sono pure abbastanza contento di non dover affrontare questo rompicapo. Sì, di votare chi do. Nonostante i 15 anni di lettura giornalistica di questo paese, ancora definisci la politica italiana un rompicapo? No, ma rompicapo definisco per chi votare, no? Destreggiarmi nella politica italiana credo che dopo 15 anni quasi qua, più non so, un periodo quasi trentennale che seguo le cose italiane sin dai tempi dell'università, ho le idee abbastanza chiare, ma ho le idee meno chiare su chi voterei, questo stavo esprimendo. Senti, frequenti altri tedeschi o altri stranieri a Roma? E certo, fra colleghi ci si vede più, anche fra non colleghi, qualcuno certo che lo si incrocia in una grande città come Roma. E quando vi trovate con occhio straniero naturalmente a commentare o a sorridere sui vezzi e le abitudini italiane, cosa prendete di mira? Diciamo, quello che ci colpisce tutti quanti come stranieri, al di là delle simpatie politiche, è veramente questo fattore B come Berlusconi, senz'altro, e lì parlo anche per corrispondenti conservatori di giornali olandesi o anche inglesi, che non riescono a immaginare almeno al momento una simile situazione nel loro paese di origine. E questo dici viene da colleghi di destra e di sinistra? Sì, no, parlo proprio di colleghi che lavorano per testate marcatamente conservatrici. E non è, diciamo, non si, lì non distinguiamo per collocazione destra e sinistra, ma proprio è uno stupore più generale di tutti i corrispondenti esteri o quasi. E a parte questo noto stupore per questa situazione italiana tra i giornalisti stranieri che vivono in questo paese, quali altri aspetti della vita quotidiana, per esempio, continuano a sorprendervi? Ma diciamo sulla vita quotidiana poco o niente. Quelli di cui parlo io sono persone che ci vivono pur loro da anni, mezzi italianizzati. Diciamo, noi viviamo un po' a metà strada fra i nostri paesi di origine, soprattutto se sono nel nord Europa e l'Italia, che qua scopriamo sempre che magari veniamo da un altro paese dove magari mediamente le persone sono più ligi a regole, doveri, eccetera. Quando torniamo invece nel paese, io in Germania, questi altri in Olanda, eccetera, diciamo, mannaggia, qua sono troppo fissati, magari sulle regole potrebbero essere un minimo più flessibili. Ah, quindi avete una sindrome italiana, cioè ritornate in paesi, diciamo così, ben governati, dove le regole si fanno rispettare e vi trovate a disagio, vi siete un po' italianizzati. Sì, infatti, no, infatti là una certa rigidità eccessiva, tipo la persona che mi guarda male quando entra verso il semaforo col rosso mentre non si avvicina nessuna macchina, io a piedi dico qua non aspetto 2 ore. E tu gli rispondi in romano, non aspetto 2 ore, cioè no? In tedesco con accento romanizzato. Infatti. Sull'aspetto immigrazione, un aspetto con il quale la Germania fa i conti da anni, mentre l'Italia ancora stenta a regolamentarlo più che a viverlo, ad accettarlo. Quali sono le procedure che, se tu potessi, importeresti dalla Germania? Diciamo, io non so quanto debba copiare l'Italia dalla Germania, perché la Germania intanto è un paese che si è accorta con un colpevole ritardo di decenni di essere un paese di immigrazione. Per esempio nel sistema scolastico gli italiani ancora oggi accusano delle difficoltà e lì la Germania ha perso molti treni. Possiamo parlare di discriminazioni? Meglio. Come? Possiamo parlare di discriminazioni? Eh sì, per esempio a livello scolastico mi piace molto di più il modello italiano, che differenzia più presto dopo gli 8 anni. E lascia anche a chi poi fa una scuola professionale comunque il binario dell'accesso all'università. Sì, in grado, no? Lì per esempio l'Italia farebbe bene a mantenere ferma la posizione su quello, farebbe bene a imparare il negativo in virgolette dalla Germania. Cosa cioè evitare? Evitando molti errori che noi abbiamo fatto più che altro. Grazie per questo contributo e per questa lettura doppia e dell'Italia e della Germania, che naturalmente il tuo patrimonio proprio esistenziale ti permette di fare. Grazie, buona giornata e naturalmente buon lavoro, Michael. Buon lavoro a voi. Michael Bauer, corrispondente della radiotelevisione tedesca dall'Italia. Continueremo con questo viaggio nel corso di quest'estate, di questa versione estiva di Bianco o Nero, sottoponendoci a questi giudizi, come avete sentito, con tanta benevolenza verso l'Italia, sorprendono in questa direzione i corrispondenti stranieri. Continueremo questa Visti dagli altri domani alle 8:15. Ora però lo sapevate che dal modo in cui compriamo o affittiamo casa si può scattare anche una foto del paese? Discuteremo anche di questo nel nostro Bianco o Nero dedicato alla cedolare secca, vale a dire al federalismo municipale che prevede questa imposta sugli affitti. Si parlava di 25%, ieri poi c'è stato un cambio di direzione, si è arrivati al 20%. Comunque i canoni di locazione saranno sottoposti con opzione volontaria a una tassazione fissa, che nelle intenzioni dovrebbe essere un modo per combattere l'evasione fiscale e il nero, soprattutto, degli affitti irregolari. È un passo avanti, questo vi abbiamo chiesto. 65% degli ascoltatori hanno detto sì fino a questo punto, quindi giudicate una buona norma quella che scatterà dal 2011, no, per il 35%. Se volete votare, www.radio24.it. 24 mattino estate. Insieme, dunque 32 minuti dopo le 8, alcuni numeri in apertura, quello degli sms 349-238-6666, quello della linea telefonica 800-24-00-24 e i miei saluti. Sono Irene Zerbini, ringrazio innanzitutto chi ha lavorato con me in questa settimana e per questa puntata, sopportando e sudando, Carmelo Lauricella in regia e Sara Spreafico. Soprattutto a voi, buongiorno, benvenuti anche ai nostri 8. ospiti per un tema che riguarda, se non tutti, moltissime persone in Italia. Stiamo parlando di affitti, chi è proprietario, chi invece ne usufruisce come inquilino, comunque qualcosa con cui si ha a che fare. È stata introdotta una cedolare secca al 20%, se arriverà così in Gazzetta Ufficiale, visto che ci sono stati dei cambiamenti. Non vogliamo oggi tanto scendere nel dettaglio tecnico, perché il Sole 24 Ore l'ha fatto anticipandone i contenuti, Sebastiano Barisoni a Focus Economia l'ha fatto da queste frequenze, da questo microfono. Vorremmo approfittare invece di queste novità per capire qual è la situazione degli affitti oggi in Italia, se il mercato del nero in qualche modo potrebbe essere contrastato in maniera sostanziosa, se questa nuova cedolare ci porterà in quella direzione e soprattutto se questa altissima percentuale di case di proprietà, 82% in Italia, mentre nel resto d'Europa le percentuali sono molto diverse, dice qualcosa sull'animo, sulle inclinazioni, sulle predisposizioni degli italiani anche in altri ambiti. Mercato in nero, innegabile, c'è, è grande, i controlli, perché non si fanno? Perché non si fanno abbastanza? Cominciano a chiederci i nostri ascoltatori. Allora, comincio a introdurre il generale Stefano Screpanti della Guardia di Finanza. Buongiorno generale, grazie per il suo tempo. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. E ancora con noi Chiara Saraceno, sociologa della famiglia e professore di ricerca all'Università di Berlino, autrice di qualcosa di molto interessante quando lavorava con Livia Turco, cioè l'allora ministro per la solidarietà sociale nel primo governo Prodi, ma ce lo illustrerà tra poco. Intanto buongiorno professoressa Saraceno. E buongiorno anche a Daniele Barbieri, segretario nazionale del Sindacato Nazionale Unitario Inquilini, noto come SUNIA, benvenuto. Buongiorno a voi. Ben ritrovato a Paolo Franco, senatore della Lega, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. E soprattutto membro della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale. Questa norma, che fino a questo punto è giudicata in maniera positiva dai nostri ascoltatori, dice infatti il 64% di chi ha votato, è una buona norma, è un passo avanti. Partiamo dai controlli, perché tra poco il generale della Guardia di Finanza dovrà tornare al lavoro. E dunque, qual è l'entità del fenomeno affitti in nero secondo la vostra esperienza, generale Screpanti? Beh, guardi, innanzitutto mi devo agganciare a quello che lei ha detto all'inizio. Lei ha affermato che i controlli non si fanno, sono pochi. In realtà mi permetta di dire che non è assolutamente così. In tutto nel 2009 e nei primi sei mesi nel 2010 noi abbiamo fatto circa più di 4.000 controlli sugli affitti in nero fra privati, trovando un ammontare di imposte evase per circa, ai fini delle imposte sui redditi, per circa 25 milioni di euro. Il 50% di questi controlli e il 55% di questi risultati si annidano soprattutto nel fenomeno delle locazioni brevi nelle località turistiche, soprattutto nella stagione estiva, e poi è seguito dal fenomeno degli affitti nera studenti e poi degli affitti per esigenze abitative più lunghe. Ci sono, per dare un'idea di quello, delle dimensioni che i singoli casi possono assumere, potrei citare ad esempio un recentissimo caso di fine luglio nel litorale romagnolo, dove due soggetti che di fatto esercitavano un'intensa attività di intermediazione immobiliare, proprietari di 37 unità immobiliari che affittavano in maniera abbastanza frequente, tra il 2006 e il 2009 hanno dichiarato al fisco appena 50.000 euro annui. Le nostre verifiche hanno consentito di ricostruire un giro di affari connesso agli affitti in nero per circa mezzo milione di euro. È decisamente sostanziosa come evasione generale. Innanzitutto non abbiamo affermato che i controlli siano pochi, abbiamo detto che il sentire comune è visto il tono dei messaggi che ci arrivano. E c'è anche chi segnala, per esempio ci sono località, lei giustamente ha parlato di affitti brevi, come le località universitarie, in cui semplicemente suonando un campanello ci si trova di fronte fronte a uno studente che sarà in una posizione debole, diciamo così, che avrà dovuto accettare molto spesso una situazione di nero per sistemarsi vicino all'università, condividere una stanza. Queste situazioni ci sono state segnalate anche in questi giorni. Come fate? Quando vi muovete? Quando scattano i controlli? Cioè, avete bisogno di una segnalazione? Fate dei blitz? Come agisce la Guardia di Finanza? Beh, innanzitutto la Guardia di Finanza è una forza di polizia che basa tutta la sua attività di contrasto all'evasione e agli altri illeciti sul controllo economico del territorio. Ogni giorno le nostre pattuglie ricercano e acquisiscono sul territorio notizie, informazioni indicativi di illeciti. Il settore degli affitti in nero è un fenomeno molto molto frammentato, molto nascosto nelle vie dei grandi centri urbani o delle località costiere, quindi è molto importante la collaborazione dei cittadini e di chi si trova nelle situazioni che lei ha evidenziato, quasi di parziale vessazione. Ecco, chi vuole segnalare queste situazioni alla Guardia di Finanza, dandoci una mano a contrastare questi fenomeni, può farlo in tanti modi. Primo, c'è il numero di pubblica utilità 117 che mette in collegamento chi chiama con tutte le sale operative delle province d'Italia. Poi ogni reparto del corpo sul territorio è a disposizione a ricevere segnalazioni di questo genere di illeciti e anche di illeciti di altra natura. C'è il sito internet della Guardia di Finanza www.gdf.it che permette di inviare telematicamente queste segnalazioni. L'unica raccomandazione che facciamo a chi ci vuole dare una mano nel contrastare l'evasione e questo fenomeno di assumersi un minimo di responsabilità, nel senso evitare delle azioni anonime che non possono essere prese in considerazione, fare segnalazioni appunto di cui ci si assume la paternità e possibilmente precise e dettagliate in maniera da darci veramente una mano invito, concreta. Chiaro, un invito molto civile. Grazie infinite al generale Stefano Screpanti, sappiamo che deve tornare al lavoro, grazie per questo contributo. Ora, si è parlato di vessazioni e di contribuire, gli interessati, gli inquilini lo facciano, segnalino queste situazioni di irregolarità. Allora, Barbieri, segretario nazionale del SUNIA, gli inquilini lo fanno e se lo fanno rischiano qualcosa? Potrebbero essere incentivati a dare una mano per far emergere il nero? Ma il problema principale degli inquilini è quello di mantenere una stabilità locativa. È naturale che in un cioè, clima... detto diciamo così in parole un po' meno tecniche, mantenere un appartamento mantenere senza doversene andare. Mettiamola in questo modo, mantenere la propria abitazione. Quindi è ovvio che in assenza di un mercato che funzioni, la tendenza principale è quella purtroppo di accettare... Pronto? Sente? Sì, abbiamo interesse anche a mantenere la linea, non solo l'abitazione. Ci sente? Sì, certo. Dunque, in assenza, diceva, di un mercato... Dicevo, in assenza di un mercato regolare, è naturale che l'inquilino in qualche modo tende a subire ricatti o ricattini che vengono da parte della proprietà, compreso anche il contratto in nero. Se si aggiunge poi il fatto che non c'è alcun vantaggio fiscale per l'inquilino a denunciare l'assenza di contratto o un contratto irregolare, naturalmente questo si aggiunge problema a problema e quindi è assolutamente difficile per l'inquilino trovare il coraggio per denunciare situazioni anomale, anche se naturalmente noi facciamo del tutto perché questo avvenga. Vantaggio fiscale, cosa intende? Quale potrebbe essere? Per esempio, chi compra una casa, la prima abitazione, contraendo un mutuo, ha la possibilità di detrarsi una parte del mutuo pagato dal reddito, cosa che non è possibile per gli affitti. Perché non pensare, non introdurre la possibilità per l'inquilino di detrarsi l'affitto che viene pagato in parte o in tutto dal reddito dichiarato? Questo, oltre a portare un indubbio vantaggio economico all'inquilino, creerebbe un conflitto di interessi sano con la proprietà che potrebbe contribuire a portare allo scoperto i contratti in nero. In tutto, in parte, perché no? Senatore Paolo Franco, Come le sembra questa proposta? Non si è percorsa questa strada in questo caso? C'è una ragione? Ne avete discusso? Avete pensato che incentivare gli affitti non avrebbe poi portato a quel grande aiuto verso la lotta all'evasione? No, io credo che sia un percorso. Sappiamo che l'introduzione della cedolare secca sugli affitti non è una norma fine a se stessa, ma fa parte del progetto di finanziamento di fiscalità locale dei comuni. Pertanto va vista nel decreto che è stato, nella bozza di decreto che è stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri, insieme alla rivisitazione anche delle imposte locali, introducendo l'imposta municipale proprio, quella facoltativa. E questo è un aspetto importante che dovrebbe portare dei benefici appunto alle varie municipalità che fanno fatica a finanziare i diversi servizi che poi sul territorio caratterizzano l'attività dei comuni. Quindi questo dovrebbe, da questo tipo di attuazione del federalismo, dovrebbero trarre grande beneficio alla fine i cittadini. Questo è importante sottolinearlo. Sì, sul discorso della cedolare degli affitti, che è appunto uno di questi importanti aspetti, ripeto, sono tutte nuove formulazioni di imposte che vanno a sostituire precedenti imposte e non ad incrementare il numero delle imposte, anzi a ridurlo e né tantomeno la pressione fiscale. Sulla cedolare secca degli affitti, comunque, al di là che adesso venga introdotta, poi dovrà essere discussa ovviamente dalla conferenza Stato-Regione e all'interno della Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale, si è discusso già a lungo nel passato anche in Parlamento, perché sia da un lato il fenomeno degli affitti in nero, sia dall'altro quello di garantire una costanza nelle imposte che riguardano le locazioni, più volte si era pensato, senza trovare gli strumenti opportuni, di introdurre questo nuovo sistema diverso fiscale. Voglio dire anche che per quanto riguarda la cedolare secca degli affitti è un sistema al momento perlomeno previsto come facoltativo, però è molto importante, è importante non solo il principio, cioè io pago un'aliquota indipendentemente dal mio reddito, perché a questo punto è una cedolare secca, ma è importante anche perché permette, se c'è un'aliquota opportuna, di cominciare, si diceva poco fa, in maniera anche legislativa e nei controlli, a frenare il fenomeno delle locazioni in nero. Cioè il principio, semplificando, senatore, è importante, perché è evidente che se parliamo del 25%, deve convenire, chiaro. È chiaro che deve convenire, lei dice, così, che si opti per questa cedolare, perché va detto, insieme a questa cedolare sono state introdotte delle sanzioni pesantissime per chi evade senza sconti, per chi non dichiara. Di conseguenza ci potrebbe essere, questa è un po' la filosofia che ha mosso l'interesse a chi finora in nero a mettersi in regola da gennaio del 2011, evitare sanzioni che vanno anche fino al 400% rispetto alla parte che viene contestata, insomma, come evasa, come in nero. Quindi invece di incontrare grane e salassi, chi è in nero oggi potrebbe optare per questo tipo di uscita. Però, senatore, le abbiamo chiesto, l'hanno suggerito anche gli inquilini, perché non coinvolgere gli inquilini in questa ricerca del nero, agevolandoli, per esempio permettendo loro di detrarre parte o completamente dell'affitto. Ne parleremo tra poco, prima andiamo a controllare la situazione del traffico sulle strade in Italia. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? È un tema che appassiona, quello degli affitti. Stanno arrivando molti, molti messaggi e c'è chi chiede tutele per i proprietari, perché anche questo è un aspetto che va così esplorato. In altri paesi esiste un mercato dove la trasparenza è garantita e per l'uno e per l'altro. Rimaniamo in Europa, in Olanda in affitto sono il 70% delle unità abitative, in Germania il 50%, livelli altissimi anche in Austria, e soprattutto si scoraggia la tendenza invece tutta italiana a tenere gli appartamenti sfitti, proprio perché la casa ha un valore di mercato, è facilmente cedibile e il proprietario può facilmente tornarne in possesso una volta che gli serva. In Italia non sempre è così, e conosciamo tutti le situazioni di contrasti e contenziosi che si trascinano per anni tra proprietari e inquilini, e a volte i proprietari devono arrivare addirittura dopo anni di tribunali, cause, avvocati, a pagare una buona uscita all'inquilino anche moroso pur di tornare in possesso dell'appartamento, dell'unità abitativa, situazioni che ci vengono segnalate anche dai vostri SMS. Ho cercato di farne una sintesi. Abbiamo parlato delle altre realtà europee perché vorrei disturbare Chiara Saraceno, che vive e lavora in Germania. Torneremo poi anche con Paolo Franco, senatore della Lega Nord, a cui abbiamo chiesto: non è possibile detrarre una parte dell'affitto anche in maniera tale che l'inquilino non abbia nessun interesse a procedere a transazioni in nero. Torniamo in Germania, dicevamo, per capire se avere una percentuale altissima di case di proprietà, avere una percentuale altissima di affitti, racconti poi una società che si muove, vive, abita, si sposta in maniera diversa. Lei che ne pensa, professoressa? Sicuramente sì, cioè il problema della mobilità poi riguarda soprattutto i più giovani, riguarda tutti noi, ma sicuramente per i giovani la possibilità di accedere a un affitto a prezzi abbordabili, equi, senza dover investire troppo, consente una mobilità rispetto allo studio, rispetto al lavoro, eccetera, molto importante quando si inizia la propria vita familiare e professionale. Ma c'è chi dice invece meglio favorire l'acquisto della casa invece che l'affitto. Certamente, no, è meglio favorire l'affitto invece che l'acquisto, sì, per due ragioni. Primo, perché consente di essere mobili, di modificare la propria situazione abitativa sulla base delle proprie esigenze, sia di studio che di lavoro, che familiari, perché se uno investe nell'acquisto di una casa con le risorse che ha quando è più giovane, poi dopo gli arriva un figlio o un figlio in più, si trova bloccato perché sta ancora pagando il mutuo, mentre invece se in affitto più facilmente può muoversi, ma anche perché acquistare una casa quando si è giovani significa anche dover dipendere dalla disponibilità dei propri genitori, quindi significa rafforzare quella dipendenza dalla famiglia che in Italia e più in generale nei paesi mediterranei è molto forte. Sarà anche bellissimo che ci sia la solidarietà familiare, però significa che i giovani hanno le ali un po' tarpate, autonomi, sì, adulti, autosufficienti. Hanno le ali tarpate anche per questo senso di responsabilità, poi perché i prestiti, sì, anche a livello, sì, morale si restituiscono. Anche i regali, cioè come dire, diventa l'abitazione, sì, anche delle nuove generazioni, un investimento complessivo della famiglia allargata. Professoressa, no? Dunque le società più mobili, le società più dinamiche fanno politiche della casa? Sì. Sì, non mi risulta che ci siano detrazioni del costo dell'affitto o dalle tasse, per quello che ne so. C'è anche abbastanza protezione degli inquilini, perché lei diceva che in Italia è difficile liberare un appartamento. Sì, ce lo stanno segnalando. Volte, però anche in Olanda mi risulta, in molti paesi esistono quello che in Italia si chiamavano, adesso non ricordo più il termine tecnico, ma comunque gli affitti protetti, cioè non è che un proprietario può cacciare, però i contratti sono chiari, ecco, cioè voglio dire, scaduto il contratto si può non rinnovare, ecco, non c'è questa chiaro, non credo che nelle segnalazioni auspicassero neanche i nostri ascoltatori una cacciata prima della fine del contratto, si parlava a scadenza. E vorrei chiederle allora, senatore Paolo Franco, e lei è membro della commissione appunto per l'attuazione del federalismo fiscale, ha sentito così una politica degli affitti che porti a emergere il nero, porti a un mercato regolare, favorirebbe anche l'emancipazione dei giovani, la mobilità sociale? È un aspetto importantissimo quello dei giovani, è stato toccato poco fa, proprio perché fuori luogo ricordare che oggi la ricerca di un posto di lavoro o di un'abitazione non è facile, è anche molto costosa. Parlare poi della fiscalizzazione a favore dell'inquilino, del costo dell'affitto, sì, non è una cosa sbagliata, è una cosa da prendere in considerazione, dicevo poco fa, in un processo che sta vedendo una riforma della fiscalità che riguarda l'abitazione. Già è un po' difficile passare dal sistema strettamente legato all'IRPEF a quello appunto della cedolare secca, perché come sappiamo qualsiasi intervento fiscale deve controllare che non ci siano delle diminuzioni dell'entrata o dell'aumento delle spese, cioè altrimenti andrebbe coperto. Però questo è un primo passo. Io credo sia opportuno, una volta che questo primo passo sia regime, e ripeto, comunque la sua finalità è quella di permettere alle autonomie locali di avere delle fonti di finanziamento chiare e di partecipare, perché poi mettiamo l'accento anche su questo, c'è il diretto interesse anche delle amministrazioni comunali, quindi non a stanare gli evasori, a stanare gli evasori, ma questo è chiaro, arriva alla realtà e più diciamo c'è un interesse che può più essere, più si stanno negli evasori più aumentano le entrate in cassa. Poi, in questo caso un passo successivo con questi aspetti non riguardano più il federalismo fiscale, riguardano la fiscalità generale, io credo sia anche opportuno prendere in considerazione di permettere avere dei benefici fiscali a chi paga in regola, ovviamente. Dei benefici fiscali, ha sentito il SUNY, ha detto, in tutto o in parte. Daniele Barbieri, è qualcosa che si fa altrove? Sì, è qualcosa che si fa altrove, si fa sicuramente meglio che da noi e soprattutto altrove c'è, come diceva la professoressa Saraceno, una politica della casa. Qui in Italia non esiste una politica della casa, la casa viene vista in termini fiscali, la questione della cedolare secca ne è un esempio, però vorrei sottolineare, vorrei ricordare al senatore che questa operazione di cedolare secca può costare dai 900 milioni al 1,5 miliardi di euro, a seconda di come viene applicata, e per questo tipo di cedolare le risorse si sono trovate, non si capisce perché non si riescono a trovare per gli inquilini. Aggiungo semplicemente il fatto che il senatore ha detto una detrazione fiscale a favore degli inquilini costerebbe, bisogna coprirla, e lei dice anche questa cedolare che di fatto esautora per chi opterà per questa soluzione l'IRPEF costerà, quindi lei dice una questione di priorità politica alla fine. È una questione di priorità politica, tra l'altro la scelta sulla cedolare non è una scelta per contenere il livello degli affitti, perché si fa uno sconto generalizzato ai proprietari senza richiedere in cambio, tra virgolette, un abbassamento del livello degli affitti che oggi rappresenta l'emergenza più rilevante sul fronte abitativo. Sentiamo anche velocemente in chiusura come la pensano i nostri ascoltatori. Dalla provincia di Ravenna abbiamo Mauro, la invito veramente a una sintesi quasi impraticabile. 30 secondi Mauro. Ah sì, pronto? Sì, pronto, vada. Volevo dire che faccio il commercialista, considero questa norma profondamente ingiusta, perché colpisce i redditi da locazione, diciamo da speculazione. Conosco gente che ha persone che hanno centinaia di appartamenti, pagheranno il 20%, qualsiasi altro reddito da lavoro autonomo, il mio personale, di imprese, paga aliquote del 45-50%, perciò persone che hanno decine di appartamenti e con la scusa, diciamo, con la motivazione che un reddito che non emerge, ma io credo che il reddito che deriva dagli affitti sia il più facile da scoprire dalla Guardia di Finanza. Basta girare le città universitarie, basta girare le città turistiche, penso andare a suonare i campanelli, controllare le utenze, qualsiasi altro reddito difficilmente evaso, difficilmente è difficile, è difficile, non impossibile, però insomma richiede un po', non è così immediato, non è sotto gli occhi di tutti. Grazie al commercialista di Ravenna. Da Padova invece Daniele, velocissimo. Salve. Salve. Mi sentite? per me vale lo stesso discorso, basterebbe semplicemente fare i controlli. La casa è il mondo dei controlli, è il mondo dove c'è l'evasione. Basterebbe fare i controlli dalla costruzione ai traslochi al notaio, anche i notai fanno il nero. Vabbè, ma per dicevano cui... senza nemmeno arrivare a questo, sulla casa e sugli affitti in particolare, suonare un campanello e chiedere ce l'ha il contratto. Questo suggeriva il commercialista, un po' meno articolato come processo. Comunque l'affitto riguarda tanti, se non tutti, come proprietari e come inquilini. Noi vi abbiamo chiesto se questa norma, che finora è giudicata bene dai nostri ascoltatori, è un passo avanti. Hanno detto sì, il 64% di chi ha votato il nostro sondaggio finora, no il 36%. Continuate a votare www.radio24.it. Grazie al generale della Guardia di Finanza che oggi è stato con noi, Stefano Screpanti, grazie alla professoressa Chiara Saraceno, docente a Berlino di ricerca, Daniele Barbieri, segretario nazionale del SUNI, e grazie al senatore della Lega Nord, membro della Commissione per l'attuazione al federalismo, per tutte le spiegazioni che sono state date in questa trasmissione. Da Irene Zerbini, appuntamento domani mattina.